Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Da 7 anni il trend è negativo e appare inarrestabile. In Italia nascono meno bambini e le mamme sono sempre più anziane, con poca predisposizione a fare figli. È la foto scattata nel nostro paese nel 2015 che poco si discosta da quella dello scorso anno. Secondo i dati forniti dall'ISTAT, l'Istituto Nazionale di Statistica, nell'ultimo rapporto sulla natalità, lo scorso anno sono stati iscritti all'anagrafe 485.780 bambini, quasi 17.000 in meno rispetto al 2014. Prosegue dunque in modo inesorabile il trend del calo delle nascite, un quadro negativo che colpisce tutti, sia le coppie italiane che quelle straniere. E nei primi 6 mesi del 2016 i nuovi nati sono diminuiti. Torniamo a parlare dei bambini. Abbiamo parlato qualche tempo fa, si facevano ipotesi, supposizioni, sono anche stato duramente ripreso da molti ascoltatori perché mi ponevo il problema: ma perché non li fate i figli? Ci sono mille ragioni perché la gente faccia meno figli, avete visto? Oltre 17.000 in un anno iscritti all'anagrafe, sono 17.000 bambini che c'erano l'anno precedente, l'anno dopo non ci sono più. Qualcuno si comincia a porre domande: come mai in Italia si facciano così pochi figli? Non è che non si fanno soltanto perché le coppie italiane sono diventate egocentriche, laiciste e non hanno più il sacro concetto della famiglia, le fanno soltanto gli stranieri. No, anche gli stranieri hanno diminuito la loro capacità di procreare figli. Oggi sentiremo tra poco una ricercatrice dell'Istat, ci dirà nei numeri in effetti come, in che maniera, attraverso quali categorie della nostra società è possibile registrare questo calo di bambini. Però vi faccio, prima di iniziare la discussione, una premessa. Anche l'Istituto Statistico dell'Unione Europea ha diffuso dei dati sul calo demografico in tutta Europa. Viene fuori che la Francia è il paese che tutto sommato fa più figli di tutti. Guardate, non è che siano, adesso non so in quanto corrisponda, ma si parla di un bambino 1,37 per donna in Italia, cioè bisogna tagliare il secondo bambino in un 37esimo. La Francia, che è il paese se ne fa di più, se ne fanno 2,1, cioè fanno due figli e poi bisogna prendere un mignolino di un altro bambino. Sembra pochissimo, però è tanto rispetto all'Italia. Diamo per scontato che in Francia ci siano delle politiche molto più efficaci per aiutare le donne, per incentivare le coppie a fare figli, con degli stipendi medi si può più facilmente pensare che mettere al mondo dei figli non sia poi un'impresa così disperata. Ma quello che dice mi interessa, ho un grosso demografo, Laurent Toulemont, che io non conosco, però è stato intervistato dal Guardian, e dice che il vero segreto del fatto che in Francia si facciano figli in realtà non è tanto le migliori politiche di assistenza, ma che i genitori, le regole che riguardano le famiglie sono molto più flessibili. Non ci sono degli obblighi, ci si può sposare da più tardi, si può sposare attraverso, si possono fare figli attraverso famiglie ricostruite, genitori single, nascite fuori dal matrimonio. Insomma, i paesi dove ci sono meno regole ferree scritte nelle porte del cielo che descrivano l'ambiente in cui si possono fare figli, si fanno più figli. Deduco che i difensori del sacro istituto tradizionale della famiglia pensino che o difendi la famiglia tradizionale o difendi il fatto che nascano pochi figli, perché nella famiglia tradizionale più ci sono degli obblighi, più ci sono delle regole, più la gente difficilmente fa figli. Fa l'esempio questo demografo: c'è in Giappone una donna che decide di fare i figli, deve essere sottomessa al marito, abbandonare il lavoro, fare una vita da schiava dentro casa, quindi ci pensa 10 volte. Una donna che sa che comunque il figlio può farlo, sia sposata, non sposata, fidanzata, non fidanzata, sia vecchia, anziana, giovane, sia lavori o non lavori, comunque può fare, nessuno la giudica per fare il figlio, e la stessa cosa vale per un uomo, è più facile che facciano figli. Su questo vorrei farvi riflettere. 800 24 00 24, a tra un istante. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Io credo perché c'è meno lavoro e quindi i ragazzi non si buttano sicuramente a far famiglia, perché non sanno poi come mantenerli e quindi di conseguenza non hanno figli. Beh, io vorrei averli prestissimo a 25 anni, eppure Forse una forma di egoismo può essere, le nuove generazioni non vogliono sacrificare come magari la mia generazione, non lo so. Quanti figli ha lei, signora? 2, 3, noi facciamo, questa è la vita nostra, perché lavoriamo per figli, no? Qua in Italia è un'altra mentalità, non lo so perché. Perché le donne italiane secondo lei non fanno figli? Per comodità. Troppa fatica? Certo che fatica. Non è che per caso la crisi incide in questo? No, io penso che non è questo. Quando vuoi fare figli, figli è una gioia. Fai, ti metti a lavoro, ti metti... Io mi ho cresciuto sola, i miei figli, sola. Queste sono interviste fatte per strada a donne italiane, a donne che vengono da altri paesi, dal TG Padova Telenuovo. Hanno fatto un'inchiesta e viene fuori un dato interessante. Non sono molto d'accordo che siano le situazioni di disagio che non permettono di fare i figli. Il maggior numero di figli si fa proprio quando si è disagiati. Più le persone stanno bene, hanno una vita agiata, hanno gran tempo libero e possono permettersi di riempirlo in maniera gratificante, più si allontana la voglia di rinunciare a questo per fare dei figli, ma questa è una mia supposizione. Leggo qualche messaggio di ascoltatori che già danno le prime letture alla mia domanda. Dice Nicoletti, è logico che gli extracomunitari non fanno figli in Italia, in Africa, scusate, venisse solo dall'Africa, stanno in una capanna, ma che pensate? La gente che viene qui, stanno in case come le nostre, molta gente che viene qua, andate a vedere molte città dell'Africa, beh, stanno in una capanna, ancora ha una visione dell'Africa che aveva suo nonno quando andava a conquistare le colonie, non pagavano niente se non preoccuparsi un pochino di cibo quando c'era, iniziano a caccia con la lancia. In Italia gli tocca vivere come noi e quindi, non bastando i soldi, diventano consapevoli e non fanno i figli, hanno gli stessi problemi potremmo avere noi. Giampiero, questa è la lettura di Giampiero. Un'altra lettura da parte di Fabio, questa è molto più interessante, c'è una profonda radice di approfondimento sociologico. Nicoletti, lo sai bene, no, non lo so, le donne italiane sono viziate e poi quando arrivano attorno ai 40 anni, pur di avere un figlio, mendicano seme. Un vecchio adagio dice, quando sono finiti i cavalli si accontentano anche dei muli. E Fabio sicuramente si sente uno stallone e dice, vedi, le donne si accontentano dei muli. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, è un piacere essere qui in diretta. Ascolti, io le volevo dare la mia testimonianza. Io ho avuto un figlio in giovane età, ora ho 33 anni e mio figlio ha già 10 anni. È tutto verissimo quello che ho sentito sul fatto che ci sia un grosso egoismo, sul fatto che le donne italiane comunque preferiscono avere molto tempo libero, però secondo me... Sì, ma io posso dire una cosa, Fabio, scusi, non la voglio interrompere, sì, ma... Sì. Uno ha anche di diritto di pensare che vuole godersi il tempo libero. Assolutamente. Cioè, non c'è una legge divina che impone fai figli a una donna. Assolutamente no, infatti io vorrei dire questo, che secondo me però la discriminante, se in Italia e in Giappone ci sono così poche nascite, non posso che l'Italia e il Giappone siano così diverse dal resto dell'Occidente, perché anche le donne che legittimamente vogliono impegnarsi in questo delirio che è crescere un figlio, hanno pochissimo, veramente pochissimo aiuto a livello politico, ed è vero che la società comunque le giudica se non nasce all'interno di una situazione perfetta, straordinaria, col lavoro migliore del mondo, quindi è una doppia forbice secondo me, dall'altra. Più o meno è quello che stiamo cercando di capire. Da una parte noi abbiamo delle maglie, parlavo poco fa con una ragazza una trentenne, che ancora lei aspetta che la persona con cui si accompagna le porti l'anello per portarlo in famiglia e potersi fidanzare, e da lì comincerà un lungo tortuoso cammino fatto di inviti, di programmazione, di scelta della chiesa, di scelta degli invitati, di capire chi deve mettere cosa, di costruzione della casa, di mettere d'accordo famiglie, suoceri, zii, nipoti, di andare a fare il viaggio di nozze, di capire se lui può mantenere lei, se lei può essere autonomamente anche capace a fare un lavoro. Dopo tutto questo ci si poi faremo dei figli. Capisce che è una gabbia ben stretta, se uno dice di cominciare questo cammino, ma chi me lo fa fare? Sto tanto bene da solo, no Fabio? Sì, assolutamente, questo è vero, la società comunque preme perché sia tutto all'interno di un fantastico castello ideale. In realtà fare figli è molto più semplice, però davvero sarebbe ancora più semplice se ci fosse anche un po' di aiuto da parte dello Stato, perché cioè, crescere un figlio solo contando su nonni e babysitter quando si hanno pochi soldi, anche l'aspetto pratico un po' preme, ecco, è una doppia cesoia, alla fine ci troviamo a essere vecchi, ho questa generazione a 33 anni che non siamo più. Grazie Fabio. Arianna, buongiorno. Buongiorno. E niente, io ho 4 figli, ben 4, e comunque trovo veramente scorretto dalla parte dello Stato dire non si fanno figli, perché comunque lo Stato non ti aiuta. Fortunatamente io e mio marito lavoriamo e non abbiamo bisogno degli aiuti dello Stato, fortunatamente. Però è stata una fatica tirare su 4 figli però. Sì, certo, l'ultima ha 5 mesi, quindi proprio il primo ha 18 anni e l'ultima ha 5 mesi. Però c'è da dire anche che se tu vuoi il bonus bebè, lo Stato te lo dà solamente se tu hai un ISE di meno di 8.000 euro, quindi se tu muori di fame praticamente. 8.000 euro all'anno? All'anno, se tu hai un ISE inferiore a 8.000 euro l'anno. Quindi se sei nella soglia della povertà, chiaramente. Esatto, fortunatamente a noi non danno mai nulla, perché noi comunque lavorando tutte e due ce la caviamo. Però non possono dire non si fanno figli quando comunque tu Stato non ci aiuti di niente. E l'asilo nido me lo devo pagare, l'asilo quell'altro, il non il nido, la scuola materna me la devo pagare, mi devo pagare le scuole, mi devo pagare tutto. Quindi uno come può pensare? Non ci sono più nemmeno quegli ammortizzatori familiari di una volta. Io sono cresciuto con i nonni, oggi non esistono più nonni, rarissimi, a cui poter lasciare dei figli in gestione. E, è cambiato tutto. C'era una struttura una volta anche che dava degli ammortizzatori familiari che permettevano di potercela fare. Oggi deve pagarsi una babysitter, deve pagarsi un asilo. Fermiamoci un attimo. Cinzia Castagnaro, buongiorno. Buongiorno. La dottoressa Castagnaro è la ricercatrice Istat che ci darà qualche idea sui numeri, comunque noi abbiamo soltanto in maniera approssimativa elencato. Questo vostro studio, qual è il dato più rilevante? Innanzitutto che si fanno meno figli, nascono meno figli rispetto all'anno precedente, questo è un dato di fatto. Sì, rispetto all'anno precedente se abbiamo detto 17.000 in meno, ma soprattutto rispetto al 2008 che era considerato un po' il picco della ripresa della natalità e della fecondità che si era avviato a partire dal 95, rispetto al 2008 sono 90.000 iscritti in anagrafe in meno. Sono tanti. Sono tantissimi, e inoltre, come avete già detto voi, questa tendenza alla diminuzione è destinata a persistere e a rafforzarsi, perché se consideriamo i primi 6 mesi del 2016 e li confrontiamo con i primi 6 mesi del 2015, vediamo che già ci sono 14.000 nascite in meno, ok, solo sui primi 6 mesi. Diciamo che, lo spot della Lorenzin è stato deleterio da questo punto di vista. Poi ha ottenuto l'effetto contrario. Quindi, comunque questa, la natalità sta continuando a diminuire, e vediamo come sta diminuendo anche nelle regioni del centro-nord, che poi erano quelle che avevano invece tirato su la ripresa, sia per la presenza straniera più marcata, sia per l'effetto recupero che è ad opera delle generazioni del baby boom, perché le generazioni del baby boom, quelle nate tra la seconda metà degli anni 60 e la prima metà degli anni 70, che erano una generazione molto numerose, che avevano rinviato, diciamo, la maternità ad età più avanzate, e la stavano realizzando in quegli anni, per cui nel centro-nord abbiamo visto questo aumento di natalità e di fecondità tra il 95 e il 2008, sia per gli stranieri che per il recupero, e invece adesso anche questo sta andando via. Le cause sono diverse su questo calo della natalità. Sicuramente c'è un problema legato alla struttura per età della popolazione, quindi questa recente fase di calo è dovuto agli effetti strutturali conseguenti alle significative modificazioni della popolazione per femminile in età seconda, che noi fissiamo tra i 15 e i 49 anni. Che cosa succede? Che le donne in età riproduttiva sono sempre meno numerose, in particolare le donne italiane. E questo calo delle nascite è attribuibile prevalentemente... Eh sì, perché nascendo meno bambini nascono anche meno bambine che possono far figli. Esatto, quindi c'è una questione legata alla riproduttività, ma proprio questo fatto dei nati da genitori entrambi italiani, che hanno la popolazione, diciamo, italiana sta invecchiando, no? Sta invecchiando, andando avanti con gli anni. Per cui se abbiamo meno donne in età seconda o in età riproduttiva, automaticamente questo diventa meno figli. Oh, certo, okay, questo è sì, trasforma, chiaro. E trasforma sui... Ma com'è, cioè, che il dato che sembra andare contro dei luoghi comuni, che anche gli stranieri facciano meno figli? Allora sì, allora diciamo che gli stranieri danno un grossissimo contributo alla natalità e alla fecondità, perché comunque anche nel 2015 i nati da almeno un genitore straniero sono 101.000, per cui stiamo parlando comunque del 20,7% sul totale dei nati, e di questi circa i tre quarti sono nati da genitori entrambi stranieri. Però che cosa succede? Anche i nati da genitori entrambi stranieri stanno calando, sono 3.000 in meno rispetto all'anno precedente e anche la loro incidenza sta diminuendo. Questo perché c'è un problema legato alla struttura per età anche sui nati stranieri. Praticamente gli stranieri, diciamo, che finora avevano riempito vuoti di popolazione nella struttura per età, anche loro stanno invecchiando. Cioè, era la prima generazione che ha fatto figli, la seconda ha fatto figli, ma soprattutto non ci pensa. Dopo la regolarizzazione del 2002, cioè negli anni seguenti, c'è stato un boom di iscrizioni in anagrafe dall'estero, no? Oltre 1.100.000 in tutto. Perché cioè, appena regolarizzati, euforici. Appena regolarizzati sono entrate, quindi le boomers di quegli anni sono entrate, sono emerse in seguito alla regolarizzazione e hanno realizzato negli anni successivi buona parte dei loro progetti riproduttivi. Poi hanno sentito l'area che ti ha apprezzato. E poi a un certo punto, una volta che l'hanno realizzati, non l'hanno fatti più. E poi un'altra cosa è cambiata. Rispetto al passato, ovviamente la dinamica migratoria si è attenuata con la crisi, questo in generale, ed inoltre sono cambiate le tipologie di comunità straniere nel nostro paese. Quindi, diciamo, al momento ci sono sempre di più comunità straniere che sono caratterizzate da un progetto migratorio in cui la donna lavora e quindi che hanno una fecondità più bassa, quindi fanno meno figli. Beh, diciamo che si sono ad onta di quello che uno pensa, sono adeguati ai nostri modelli sociali. Allora, da una parte c'è, scusi, sì, c'ha ragione, c'è sicuramente una parte di convergenza, ma in questo caso le comunità, diciamo, più rappresentate, come le ucraine, le moldave, le filippine, le peruviane, hanno dei modelli di fecondità più bassa anche nel paese di origine. Inoltre vengono in Italia per lavorare, sono prevalentemente breadwinner e quindi questo automaticamente porta a una contrazione delle nascite. Fermo un attimo, dobbiamo dare la linea solo un secondo, prenda un attimo fiato a dottoressa Cinzia Castagnaro, perché è molto interessante quello che sta dicendo, anche perché così si smontano con i dati statistici che hanno un loro valore scientifico, quelli sono tanti luoghi comuni rispetto alle nostre convinzioni, ai nostri pregiudizi. Fra un istante riprendiamo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Melog. Cronache meridiane. Voi tre avete in programma di far figli tendenzialmente nel vostro futuro? C'è questo? No, affatto. Perché? Perché comunque preferisco la vita a stare da sola, cioè comunque un figlio porta molte complicazioni. Quanti anni hai? 18. Come ti immagini il tuo futuro? Da mamma? No, assolutamente no. Da single? Single, manager magari. Quindi altri progetti di vita? Sicuramente sì. E un figlio esclude la possibilità che tu possa fare la manager? Sì, perché impedisce, magari prende tempo ad altri scopi. Tua mamma ti ha spiegato questo? È realistica questa ragazza, non potete dirle nulla. Conoscete donne che lavorano che vi dicono che aver fatto figli l'ha aiutato nella loro carriera? No, non è così, è chiaro, sei discriminata. Quando vai a offrirti per un posto di lavoro, subito ti guardano, ti squadrano, ti vedono in età fertile, cominciano a informarsi, sei il fidanzato, sei sposato, c'è in mente. Non è facile, anche la donna manager, sì, quando fai figli, deve essere ben attrezzata, perché comunque sia avere delle posizioni apicali nelle aziende significa dedicare totalmente il proprio tempo a quell'azienda, e chi non può dedicare il proprio tempo a quell'azienda in maniera totale, a meno che ha uno stuolo di babysitter che lo segue ovunque, ha delle difficoltà. Questo è realismo, non è dire che dovrebbe essere così per forza, è così. Stiamo ragionando sul fatto perché si facciano meno figli, ma senza stracciarsi le vesti, senza pensare che questa sia un'apocalisse, che si apriranno le porte del cielo, scenderanno fulmini e cavallette. È un dato di fatto, cerchiamo di capirlo attraverso i numeri, che ci fornisce la dottoressa Cinzia Castagnaro, che è la ricercatrice dell'Istat, che ci sta dando appunto qualche ragguaglio su quella che è la ricerca che ha questa mattina scatenato la nostra inventiva nel parlare di questo tema. Però prima vorrei sentire due ascoltatori. Gladys, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Allora, io ho 46 anni, sono una donna peruviana, ho molti anni qua ormai, mi sento pure io italiana. Nonostante ciò, allora, io ho 4 figli, una di 15 anni, altri 3 maschi di 10, 5 e l'ultimo di 3 anni. E questo ultimo è nato quando avevo 43 anni, quindi non certamente manco dubitato, tutti hanno fatto di tutto e di più, e fai così, fai così, abortisci, voilà. Io non mi sono posta perché io i miei figli li ho programmati, li ho avuto, il primo l'ho avuto a 31 anni, quindi sono quando sono venuta al... Avrà avuto un complice in questa sua programmazione, o l'ha fatta, certo, da sola? Mio marito. Allora le spiego, io quando sono uscita dal paese mio, sono uscita con borsa di studi, e quindi ho avuto 2 borse di studi, una a Varsavia e un'altra a Polonia, per il Pensi, che addirittura parlo polacco, ma non sono andata a imparare le lingue, sono andata al Politecnico di Varsavia. Quindi sono capitata qua per puro caso, però girando il mondo ho visto che in altre parti ci sono più bambini, tipo in Francia, ho vissuto anche in Francia, ho vissuto anche in Spagna. Sì, avevo detto, quindi, in Francia, perlomeno è il paese in Europa che in questo momento ha più figli. Allora le spiego, io da quello che ho vissuto, da quello che ho capito qua, so è che le donne italiane vogliono avere il tempo per sé, per fare la loro carriera, per prendersi cura del loro corpo. Come il paese delle mamme, la mamma, in Italia si parla solo di mamme, le mamme non si staccano mai dai figli. Non è vero, quelle sono mamme apprensive, quelle che a ultima ora, però io l'ho capito perché da nessun'altra parte mi hanno giudicato così male come qua. Qua c'era lo sguardo di tutti. Ma perché la giudicano male? Qual era il suo limite? No, adesso no, per carità, perché a me me ne frega chiunque mi giudica. Ma chi l'ha giudicata male? Chi l'ha giudicata male? Prima, no? Molto prima. E se quando vado a entrare nel negozio, sai che dicono: ma basta, vado al dentista, sempre uguale. E se uno, sempre cercando di prendere in giro. Ce la dico che ha troppi figli. Beh, ma 4 mica si avrà. No, per appunto, ne ho 4 e io però... Però mi difendo, sempre dico, scusa, buon lei così c'ha 4 clienti programmati, ecco, sono 4 apparecchi, 4 occhiali, e quando vado a comprare i calzini sono più di 50 euro, solo per comprare 4 calzini per ognuno, 4-5 calzini a calzedonia, vabbè. Quindi, però vedi, io sempre... Poi sono tutti maschi, No, 3 maschi... e una femmina, però pensi, e la femmina poveretta si mette i vestiti di fratelli alla fine. No, allora io sono una mamma proprio completa, a me dovrebbero dare il premio Nobel. Ah, è molto fiera ad essere mamma. La mamma, le spiego perché io so cucire, ma alta moda non faccio lavoretti per nessuno, perché io c'ho tempo. Lei fa tutto in casa, hai figli, tutto in casa. Faccio l'orto, faccio la mamma ripetitrice, miei figli le chiedo a chiunque, sono ai primi di classe, mia figlia fa liceo scientifico internazionale. Ma la prima ha fatto tutte le gare, Vabbè, molto fiera del suo lavoro di mamma, questo mi fa piacere. Gladys, però, quello che fa lei oggi ai suoi figli, che lo considerano un'eccezione, era quello che le mamme della nostra generazione, di noi nati negli anni 50-60, facevano di regola. La prima cosa che si regalava alle mogli era la macchina da cucire, non è che era dopo il ferro da stiro e dopo un insieme di altri accessori, che era un pochino, corrispondeva alla palla con la catena che si mette alla caviglia alla persona che stare fermo in un posto. Quindi tutte le nostre mamme hanno cucito, ahimè, per la nostra disgrazia, dei bei vestitini che ci facevano sentire umiliati nei confronti dei nostri amichetti che già avevano le cose di marca. Comunque, complimenti Gladys. Massimo. Buongiorno Nicoletti, complimenti per la trasmissione. Io sono un uomo di 41 anni, ho 2 bambini piccolini, vivo a Roma e la signora che mi ha preceduto penso che ha colpito veramente nel segno questa rivoluzione generale, culturale, epocale per quanto riguarda la donna, perché fondamentalmente al di là del fatto economico che ahimè da qualche anno a questa parte sicuramente sottolinea la difficoltà di mettere al mondo una famiglia e il futuro. Vabbè, questo abbiamo già detto, se no ripetiamo sempre, andiamo avanti, vediamo di approfondire qual è il suo punto di vista, la donna in cosa è cambiato? La donna è cambiata radicalmente dal fatto che è diventata completamente individualista, nel senso che comunque gran parte di varie generazioni pensa soltanto sì, ma scusi una cosa, io non è che voglio sembrare, ma perché l'uomo deve essere altruista, l'essere per forza egoista, la donna individualista? Perché la donna deve avere una sorta di obbligo genetico a fare la fattrice? Se non le va, non le va. Perché purtroppo Dio ha voluto che la donna deve mettere Dio, ma Dio per chi ci crede, per chi pensa che Dio sia... Qualunque Dio possa esistere, qualunque Dio, comunque sì, è la donna che mette al mondo i figli, perciò di conseguenza... Ho capito, non è se lei... non le va, ma allora, il passo avanti che hanno fatto le donne è che decidono loro, se gli vanno gli va di fare le cose, non hanno una sorta di obbligo genetico, la donna a un certo punto dice, ma scusa, ma perché tu devi startene in pantofola a guardare la televisione o andare a giocare a carte con gli amici e io devo stare a casa a pulire no, casa? No, assolutamente, questo non deve escludere la, cioè è proprio qui il problema, che una cosa non deve escludere l'altra. Io ho due bambini piccolini, ho mia moglie che sinceramente lavorava, abbiamo fatto una scelta, non lavora più. La tiene in casa? No, la tiene in casa, no, lavora nella mia azienda, perciò di conseguenza non è chiusa tra le quattro mura. E non mi pare tutto questo questo grande problema. Poi... Sì, ma posso dire una cosa, se no sembra che veramente voglio fare le battaglie perse. Se sua moglie è contenta, è giusto che sia così. Non può esserci un modello unico per tutte. È bello che uno scelga, uno dice voglio fare 10 figli, deve fare liberamente 10 figli, anche con 10 padri diversi, se le va. Questa è la differenza. Oppure uno dice voglio dedicarmi ai miei figli in maniera totale, non voglio lavorare. Dovrebbe essere in grado di poter dedicarsi ai figli. Oppure una vuol dire voglio fare la donna libera, voglio trovarmi un amante ogni giorno e vivere liberamente fino a che mi va di far così. Nessuno deve giudicarla. Non deve esserci un obbligo generale per la donna e deve essere qualcosa, perché per noi maschi non esiste questo, nessuno noi obbliga a essere qualcosa, anzi ci dicono sin da bambini che vuoi fare da grande, e alla bambina gli mettono in mano la bambolina, gli danno il biberoncino, già gli dico il piccolo ferrino da stiro, già per lei c'è un modello. Ora, questo mi ribello, a me piace un mondo in cui le donne abbiano la libertà di essere quello che vogliono, poi mi scelgo io la donna che più mi piace, più adatta ai miei gusti, via dicendo, ma mi piace pensare che le altre fanno quello che gli pare. Sandra. Sì, buongiorno, salve. Buongiorno, io volevo portare la mia esperienza perché ho sentito prima le interviste fatte alle 18enni, mi sono un po', io ho 35 anni, adesso ho 2 gemelli di 3 anni, un maschio e una femmina, che sono le cose penso più meravigliose che mi sono capitate in vita mia. Però ma aspetti che crescono, ma poi magari rivede anche le sue sì, teorie. Poi sì, no. Però a 18 e anche a 25 anni, devo dire la verità, se mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, cosa... come la vedi la tua vita, io non avrei mai detto che avrei voluto 2 figli. Ma il mondo è bello perché è vario. Ognuno... sì. Lei dice la 18enne, ma la 18enne magari lo dice in quel momento che vuol fare la sciolta davanti all'intervistatore, poi magari nel suo cuore sogna già, io conosco persone scafatissime, avanzatissime stagiste di Bolzano che già sanno i nomi dei figli, hanno manco 20 anni e già sanno il nome dei figli, capito? Già dice mio figlio si chiamerà così, dico ma che ne sai se fai una figlia? Ma si chiamerà così, e il figlio si chiamerà così, dico vabbè, beata te che già ci pensi. E a me è venuta la sudarella quando ho saputo che dovevo avere dei figli. Ci sentiamo fra un istante. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Continuo a leggere messaggi sull'egoismo, l'egoismo, l'egoismo. Ma l'egoismo verso cosa? Cioè, fino a prova contraria si vive una volta sola, ognuno la sua vita se la può giocare come meglio crede. Perché dobbiamo già nascere con una sorta di obbligo sociale di dover fare i figli? Ma ben venga chi li fa, siamo felici di chi li fa, io l'ho fatti, non è che voglio dire sono per lo sterminio dell'idea di fare figli, ma se noi siamo civilizzati proprio perché siamo arrivati alla conclusione che è bello avere intorno persone che fanno quello che li rende più felici, senza una legge scritta che le obblighi a avere dei comportamenti che per forza magari vanno contro la loro volontà. Marusca. Sì, ciao, io niente, vi dico che non ho figli, ho 40 anni, quasi 41, sono contenta di non averne. Non è il fatto di essere egoisti, si è egoisti secondo me chi fa figli forzatamente, chi dice siamo programmati per far figli. No, io non ho fatto figli perché la vita mi ha portato a non farli. Per me, scusi se permette, Marusca, è egoista chi fa figli e poi non provvede giustamente ai loro bisogni, pensando a sé, quello sì. È quello che intendevo, perché ce n'è tanta di gente così. Sento tanti anche dire, ma poi da vecchio chi è che mi accudisce? Questo è un discorso di egoismo. Certo, si alleva il badante, è un altro discorso, certo. Assolutamente, ci sono anche quelli. Io invece sono stata cresciuta già da piccola ad essere indipendente e a dover scegliere quello che volevo fare nella vita. Come dicevi tu prima, non mi hanno messo in mano la bambola o il ferro da stiro, e così è stato cresciuto anche mio fratello. Abbiamo scelto quello che volevamo fare, il nostro cammino è stato questo. Sicuramente avessi avuto una vita diversa, probabilmente avrei fatto dei figli. Ma Marusca ha una posizione laica, aperta a tutte le possibilità, non impugna il suo modo d'essere come l'unico modello possibile, non ha sua fierezza né lei di essere senza figli, né, come altri hanno fatto, la fierezza della loro folta e vasta progenie. Ognuno giustamente dovrebbe dire: sono fiero di aver fatto quello che mi rende felice. Torniamo a Cinzia Castagnaro, la ricercatrice dell'Istat. L'ho messa un attimo in silenzio perché interessava darle anche un ventaglio di ipotesi sulle quali poi lei può confrontarsi con i suoi numeri rispetto a quello che ha sentito. Vediamo se mi può illustrare qualche altro dato specifico della sua ricerca. Allora, un'altra delle cause di cui ancora non abbiamo parlato per quanto riguarda il calo della natalità è riconducibile al calo della nuzialità che si è registrato dal 2008 al 2015, sono circa 52.000 nozze in meno. È vero che nell'ultimo anno, è uscita la statistica report la settimana scorsa, nell'ultimo anno c'è stato un piccolo aumento di matrimoni, 4.600 matrimoni in più, tutti peraltro più della metà sono, circa la metà sono matrimoni civili, però ancora non possiamo monitorare se effettivamente in quei matrimoni ci saranno meno dei figli. Quindi di fatto che succede? Meno matrimoni, anche se stanno aumentando sempre di più i nati da genitori non coniugati, che sono arrivati a livello medio nazionale al 28,7%. Questo è un dato interessante. Questo è un dato interessante, però non ci possiamo dimenticare che ancora in Italia oltre il 70% delle nascite avviene all'interno del matrimonio, per cui inevitabilmente una contrazione dei matrimoni mi porta a una contrazione di nascite. Ma lei è d'accordo con il demografo francese che dice che in realtà in Francia si fanno più figli perché non ci sono schemi così fissi del contesto in cui si possono fare i figli? Uno li fa comunque, in di là del fatto che sia sposato, abbia una regolare vita matrimoniale, abbia un fidanzato, una fidanzata, li fanno e basta. Questo può incidere? Allora, io diciamo, Laurent Tolmone è un demografo veramente bravissimo, molto noto e conosciuto, per cui se dice questo avrà le sue, diciamo, le sue ragioni, avrà fatto i suoi studi per dirlo. In realtà io credo che un impatto molto marcato sulla, diciamo, sulla procreazione ce l'hanno le politiche, per cui quando si investe in politiche di sostegno alla famiglia, di fatto la famiglia è più seguita e ha maggiore probabilità di realizzare la propria fecondità. Però voglio essere malizioso con lei. Uno si accorge che non ci sono le politiche quando l'ha già fatti i figli, finché uno è nella fase che ancora non li ha fatti. Ma magari ne fa uno. Non se... ma risolto il problema. Fa un figlio, vede che è tanto difficile, ma chi me lo fa di farne fare un altro? Ma in realtà diciamo che fino a qualche anno fa il problema si parlava del passaggio dal primo al secondo figlio, no? Noi comunque abbiamo in Italia il numero medio di figli per donna è 1,35, e quindi che è calato, perché nel 2010 è arrivato fino a 1,46, no? Per tutte le questioni che abbiamo detto prima del centro-nord, del recupero della fecondità, degli stranieri, eccetera, eccetera. Vediamo che però di questo 1,35 le italiane ne fanno 1,27. Guarda, io sono più di 30 anni, faccio questo mestiere e mi occupo ogni tanto di dati Istat, non sono mai riuscito a vedere questo secondo bambino per intero, ne manca sempre un pezzo, c'è cioè sempre 1, un primo e un pezzetto. In realtà quello che stiamo vedendo, diciamo, in questi che abbiamo anche spiegato in questa l'ultima nota che è uscita, è che questo dispiegarsi degli effetti sociali della crisi economica ha innescato una fase di diminuzione della fecondità che è strettamente collegata alla formazione della famiglia. Questo perché vediamo che la diminuzione è prevalentemente dei primi figli, quindi non solo in valore assoluto che sono diminuiti, ma anche in termini di propensione delle donne ad avere almeno un figlio. Cioè è proprio un progetto che non interessa. Cioè, il numero medio di figli di primi figli per donna è circa il 50% della fecondità complessiva. Se noi consideriamo la contrazione tra il 2010, che è stato diciamo il picco della fecondità dopo la ripresa, no? E il 2015, vediamo che per le italiane il 70% del calo della fecondità è, diciamo, dipende dal primo figlio, quindi calo della fecondità del primo ordine, e per le straniere il 66%. Quindi il fenomeno di riduzione della fecondità del primo ordine è ovviamente strettamente connesso con la formazione. Sì, ma tradotto dai numeri per far capire, poi siamo in conclusione al pubblico. Le italiane non fanno più nemmeno il primo figlio, questa è la sintesi. Esatto, se vediamo le giovani generazioni, cioè se vediamo proprio i dati per generazione, aumenta in maniera marcata la quota di donne senza figli. Quindi c'è una demotivazione di base proprio nel voler far figli. Anche la nostra demografa parla di donne, ma in realtà secondo me è un progetto generale, né uomini né donne, non gli va più molto a nessuno di perdere parte della loro serenità nel fare figli, e questo è anche comprensibile. Poi vedremo come andrà a finire, se avremo occhi per vedere e tempo per vedere i cambiamenti. Alla prossima.